Linee d'ombra di Matteo Caccia. Mi sono sentito uno scemo, sinceramente, però siccome il mio motto è quello di farcela, non mi sono perso d'animo e dopo tutta questa storia burrascosa e sono andato fino in fondo. I telefoni sono out causa terremoto, tram, autobus, taxi sono out causa terremoto, vado in stazione a piedi, i lampioni sono out causa terremoto. Storia di un esame passato e di una famiglia al ristorante in una puntata che si intitola Quando tutto sembrava andare storto. Striker, ora ascolta e ascolta bene. Non c'è differenza tra un aereo e una bicicletta. Ma c'è differenza tra una bicicletta e un aereo. Ma per te non fa alcuna differenza perché non sai andare in bicicletta. Ok, ora devi disinnescare il pilota automatico. Ma sta attento, non fare manovre brusche come si faceva sui caccia, capito? D'accordo, Kramer, disinnesco il pilota automatico. Ricordati che il pilota automatico è un po' invadente, un presuntuoso, un pallone gonfiato. Non preoccuparti, stai andando bene. Un'altra cosa, c'è qualcuno lì capace di usare la radio in modo che tu sia libero di pilotare? Sì, l'hostess che è qui con me. Bene, falla sedere al posto del secondo pilota. Helen, siediti al posto del secondo pilota. Striker, prima di cominciare devo dirti una cosa. So che la situazione è piuttosto difficile per voi lassù, ma se tu farai ciò che dico da qua giù... Non c'è ragione di preoccuparsi. Ora sei lassù, ma tra poco sarai qua giù. Hai tutte le probabilità di uscirne vivo e tutto di un pezzo. Striker, che razza di tempo avete lassù? Piove! La gatta non si muove. La gatta non si muove. Si accende la candela. Si accende la candela. Si dice buonasera. Si accende la candela. Si dice buonasera. Tutto ok, Striker. Stai andando benissimo. C'è un'intera generazione di persone probabilmente all'ascolto che ricorda questo film come forse uno dei film più divertenti di quando erano dei ragazzi. Io sono tra quella generazione. Il film si chiama L'aereo più pazzo del mondo, l'avrete riconosciuto, ed è un film, o meglio è un volo aereo, quello in cui tutto quello che può andare storto va storto. Si intitola Quando tutto sembrava andare storto. La puntata di oggi è Linee d'ombra, raccontiamo storie che hanno un confine nel mezzo. Le storie di oggi sono storie molto particolari e sono storie che quando poco fa insieme ad Anita Panizza e Paolo Corleoni le riprovavamo, le riguardavamo, insomma rimettevamo insieme, davamo un corpo alla puntata, ci siamo proprio detti queste sono storie esemplari per il fatto che non sono delle super storie, sono delle storie molto quotidiane e la linea d'ombra che raccontano spesso è davvero sottile. È talmente sottile che mentre le stiamo vivendo quasi non ci accorgiamo di varcarla. Ci sono, no, dei confini che li passi e dici oh ce l'ho fatta, magari li hai preparati per anni, per mesi, che so io, un esame è l'esempio tipico, lo prepari per giorni, settimane, studi, fai fatica eccetera eccetera, poi arriva quel giorno e un secondo prima sei di qua, un secondo dopo sei di là. E poi invece ci sono momenti come quelli che stiamo per raccontarvi oggi che hanno a che fare con o con una sfiga nera, al punto che la prima storia di oggi, quella che vi racconteremo, è proprio la storia di quello che lui stesso, l'autore della storia, chiama un black day, cioè un giorno totalmente nero, e Vincenzo ce la racconterà meglio poi anche di persona. La seconda storia invece è una storia veramente deliziosa e anche molto delicata, perché racconta di una cena al ristorante, che uno dice, cosa può esserci in una cena al ristorante? Può esserci tantissimo se sei in una condizione particolare, se ti è appena nato un figlio, se c'è una piccola crisi in famiglia, se ci sono problemi di soldi, vai in un ristorante e magicamente tutto sembra andare storto e invece a un certo punto prende una piega diversa. Continueremo poi ovviamente a raccontarvi anche la nostra storia seriale, la storia seriale di Antonio Cocco. A riguardo mi è arrivato un messaggio giusto questa mattina su Instagram, sul mio Instagram personale, che faceva i complimenti per questa storia e mi faceva la domanda che credevo non servisse più, che è: ma è una storia vera? Allora, ripartiamo un attimo da capo, Paolino, lo dico a tutti, raccontiamo solo storie vere qui a Linee d'Ombra, non per altro, ma perché appunto non siamo un programma di fiction o di letteratura, ma perché raccontiamo storie di vita legate a una linea di confine, a una linea d'ombra, e soprattutto sì, è una storia assolutamente vera che è accaduta a metà degli anni 50 e non l'abbiamo raccolta, l'abbiamo conosciuta e Mauro Pescio la racconta anche grazie all'archivio diaristico nazionale. L'ultimo, poi chiudo e poi partiamo con la prima storia di Vincenzo, sul nostro profilo Facebook, che è Linee d'Ombra Radio24. Come sempre Anita ha postato un piccolo riassunto di quello che succede nella puntata di oggi. C'è un bellissimo messaggio di Marina che con un garbo che è da altri tempi scrive: mi permetto di scrivere qui per un paio di motivi. Primo, ringrazio i conduttori e protagonisti delle storie per farmi scoprire nuovi mondi. Secondo, un grazie all'Archivio Diaristico Nazionale per la gentilezza. PS, i libri sono arrivati. Grazie, quindi avvisiamo l'Archivio Diaristico che i libri a Marina sono arrivati. Voi invece semplicemente mettetevi comodi, abbiamo il solito gruppetto di storie per tenervi compagnia, per cercare di, come diciamo, illuminare un pochettino quello che ci sta intorno, per varcare delle linee d'ombra. La prossima ora qui con noi. Benvenuti a Linee d'Ombra. Tutto accadde a Napoli il 7 maggio 1984, pochi mesi dopo il drammatico terremoto di Irpinia, e come vedrete non è un dettaglio da poco. Per quasi 15 anni, sapete, io ho considerato quel giorno il mio Black Day, cioè un giorno di sfiga nera. Io, qui presente Vincenzo Spagnoletti, allora neoarchitetto, stavo partecipando al concorso per l'insegnamento di fotografia negli istituti d'arte e nelle scuole di grafica pubblicitaria. Superati scritto e orale, giunsi alla terza e ultima prova, quella pratica. Ripresa, sviluppo e stampo del bianco e nero. L'esame fu fissato a Roma presso il Centro Nazionale di Cinematografia a di 8 maggio 1984, per l'appunto. Il 7 maggio, quindi, preparo bel bello una mega attrezzatura fotografica, per cui diverse fotocamere, obiettivi, flash, accessori e vari eccetera. Quasi tutto prestato da chi ne aveva più di me, ovviamente. Parto per Roma. Mi vedete? Sono sull'Intercity delle 18 e il mio caro zio Mimmo mi aspetta nella capitale. Ma ecco cosa succede. Sapete com'è Napoli, no? Traffico caotico, stazione centrale idem, gente ovunque, folla umana, anzi disumana, massimo casino, se mi passate il termine. Fa un caldo da morire, arrivo trafelato al treno, mollo il bagaglio sulla retina portabagagli, scendo a bere alla fontanella che sta lì, risalgo sul treno e... tutto rubato. L'intero bauletto con macchine, obiettivi, i vari eccetera e i documenti. Siamo in partenza, io quindi afferro il maniglione rosso del freno d'emergenza. Niente, è incastrato. Tiro più forte. Niente. Mi ci appendo con tutto il peso. Non viene giù. È fuori uso. Passa la Polfer. Urlo, Polfer! Arrivano due agenti. Si calmi, ci dica tutto. Scendiamo e il treno se ne va. E insieme il mio bauletto. Commissariato di stazione, il maresciallo si sporge su di me, io sporgo denuncia, ignoti, beh certo chi li conosce. Non mi perdo d'animo, torno a casa, al Vomero, a prendere l'ultima macchina fotografica che mi resta. Tra quel materiale io ho raccolto tutte le fotocamere, vabbè io ne avevo una, perché a quel tempo già si parla sempre di fotocamere reflex analogiche, reflex a pellicola, però me ne ero procurato un'altra che tra l'altro era ad un amico nostro morto in un incidente d'auto. Allora io l'avevo chiesta per questa occasione, c'era dentro il bauletto, c'era anche quello, c'erano degli obiettivi. Insomma, io ero già appassionato allora quando fotografare era, cioè dovevi metterci molto impegno, insomma, perché poi era bianco e nero, camera oscura, sviluppo e stampa, insomma, era tutta una cosa complessa. Sotto casa, intorno alle 19, una forte scossa di terremoto. Molto forte. Dopo quella terrificante in Irpinia del novembre 83 e quella di San Valentino 84. Forte. Tutti per strada, chi urla, chi prega, chi piange, chi sbanda. Li conoscete i napoletani, sono un popolo terribilmente passionale. Tutti giù, folla, traffico, caos, come prima e più di prima. Non mi perdo d'animo, anche se la luce è andata via a causa terremoto. A casa, in penombra, trovo la mia mamma, la mia nonna e la mia ultima fotocamera. Spiego tutto e spiego che torno in stazione a prendere il primo treno. Vorrei avvisare lo zio a Roma, ma i telefoni sono out causa terremoto. Anche tram, autobus, metro e taxi sono out causa terremoto. Raggiungo la stazione a piedi, sono 5 km al buio, i lampioni sono out ovviamente causa terremoto. Non mi perdo d'animo. Alle 20 conquisto la stazione, ma i treni sono out, come già sapete. Vorrei chiamare lo zio. Code epocali ai telefoni pubblici. Il cellulare è ancora là da venire. Infine parlo e parto. A mezzanotte circa, per fare 200 km, il treno ci mette 3 ore e mezza. Headlong death. Oh, it feels a piston scraping, steam breaking on his brow. Old Charlie stole the handle, and the train in one stop. Oh, no, it just slowed down. Oh, he sees his children jumping off the stations one by one. His woman and his best friend in bed and having fun. Oh, he's calling down the corridor on his hands and knees. Old Charlie stole the handle, and the train, it won't stop going. No, it took slow down. Alle 3:30 del mattino sbarco nella capitale e lì trovo lo sciopero di tram, autobus, metro e taxi. E piove. Zio Mimmo abita lontanissimo da Termini, alla Boccea, sono 8 km in salita. E scendendo dal treno mi si rompe il manico della valigia. Non mi perdo d'animo, la metto sotto braccio, nella notte, sotto l'acqua, in una città che non conosco e una strada che non so. Con il furto, lo sciopero, il terremoto, la pioggia e la mia ultima fotocamera, nella notte del giorno del concorso, per 8 km in salita, fino alla Boccea, dal mio caro zietto che mi aspetta. Arrivo alle 5:30 del mattino, lo sguardo catatonico, dormo fino alle 7, poi il cugino mi accompagna in 500, al centro di cinematografia, via della Vasca Navale Tot. Alle 8 sono lì, più pallido di quando mi hanno rubato tutto la sera prima. Alle 8 arriva la notizia. È vietato fotografare con attrezzatura propria, usare solo fotocamere sigillate del Ministero della Pubblica Istruzione. Poi mancavano le informazioni, insomma, non, sai, allora non c'era un sito dove avere tutte le informazioni, non era precisato, ti convocavano e basta. Sinceramente non ci avrei pensato, perché io vivevo sempre con la mia macchina fotografica, usavo solo quella, insomma non pensavo. Chiaramente mi sono sentito uno scemo, però siccome il mio motto è due punti, farcela, questo è il mio motto. Niente, poi insomma ho cercato qualcosa di così, di normale da fotografare, poi c'era una bella luce, è venuto un bel bianco e nero e così poi mi sembra sono arrivato terzo al concorso. Non mi perdo d'animo, scatto, sviluppo e stampo la più bella foto della mia vita. Consegno il lavoro dopo 6 ore tra sala di posa e camera oscura. Sono promosso col massimo dei voti e grazie alla maturità con 60, alla laurea con lode, a una seconda abilitazione e diplomi vari di donatore di sangue, guardia ecologica e compagnia cantante, ottengo un alto punteggio, il terzo migliore di tutti. Peccato però che a Napoli non ci sia nemmeno una cattedra libera di fotografia. Non mi perdo d'animo. Passano gli anni, emigro a Milano, per 10 anni faccio il creativo pubblicitario, lavoro per Fiat, Walt Disney e altre varie potenze. Poi per caso Don Carlo, il mio giornalaio di Napoli, espone l'informatore scolastico. E io per caso sono proprio a Napoli e per caso passo dall'edicola di Don Carlo e lo compro per 6.000 lire. Informatore ovviamente, non Don Carlo. E lo compro così per caso. Per caso la mia mamma ci legge di una cattedra di fotografia disponibile a Bergamo e facendo domanda risulta che per caso sono il primo in graduatoria e mi telefonano esattamente l'8 ottobre 1997 dopo 13 anni e mezzo dal Black Day. Oggi insegno fotografia nella scuola grafica di Treviglio. Ho tenuto il mio primo corso nel 97, abbiamo fatto una grande mostra di fine anno e i miei ragazzi mi vogliono bene. Insomma... Era un black day, cioè era un giorno nefasto, e invece dopo soli 13 anni e mezzo, mi piace perché Vincenzo dice, pensate, dopo soli 13 anni e mezzo avevo la mia cattedra. Ma c'è una chiave di lettura, secondo me, in tutta la storia che ci ha raccontato, che sta nell'ultima parola del racconto, di cui adesso devo ovviamente chiedere conto a Vincenzo. Pronto? Ciao Vincenzo, buongiorno. Ciao, sono io. Bene, benissimo, io sono io, quindi siamo in due, non abbiamo problemi di identità. Senti Vincenzo, sei a Treviglio in questo momento? No, in questo momento io vivo a Milano, faccio tutti i giorni, avanti da 23 indietro. Anni faccio, sì. Col passante. Perché guarda, quella scuola merita. Sì, davvero? Sì. Senti, ma esattamente che scuola è? Che tipo di scuola è? Dunque, è un istituto superiore statale, uh-huh. Per la grafica e la comunicazione. Ok, e sta a Treviglio, è quindi è una piccola Treviglio, eccellenza sì. Nella provincia bergamasca. Sì, nella bassa, cosiddetta, una bella zona agricola, insomma un bel posto. Certo, un napoletano che apprezza la bassa bergamasca? Ma perché io cerco di mettere insieme il meglio di Napoli e il meglio di Bergamo, mi trovo bene. Senti, Dico ai miei studenti, a me piacciono le facce dei genitori dei miei studenti. Perché? Se no, famiglie sane... Pensa che una volta una mamma mi disse, prenda mia figlia e le dia due sberle da parte mia. Però, tu no, immagino non, che non l'abbia fatto perché sei passato in denuncia. Perfetto. L'ho detto verbalmente. Però guarda, una cosa vorrei dire, in tanti anni i genitori sono sempre stati dalla parte della scuola. Che è proprio old school questa, vecchia maniera. Ah sì, insomma si sta bene. Cioè, mi ricordo quando ero un bambino io non è che potevo arrivare a casa e dire la prof, mio padre e mia madre dicevano il prof ha ragione. Esatto. Ok, proprio quindi così, esattamente. Senti Vincenzo, partiamo dal fondo del tuo racconto, perché tu quando chiudi dicendo insomma sono a Treviglio, ho tenuto il mio corso, abbiamo fatto grande mostra e i miei ragazzi mi vogliono bene, punto, insomma. Noi l'abbiamo letta in maniera diversa io, Paolino e Anita. Per me un insomma è come dire, è un insomma finale, insomma alla fine la mia vita tutto sommato, nonostante col Black Day è andata bene, però Anita diceva forse un insomma tipo sì. I miei studenti mi vogliono bene, boh, insomma. No, volevo dire, beh, insomma, tutto alla fine è servito, insomma. Tutto è tornato. Sì, insomma, essere andato fino in fondo. Lo usi spesso, insomma, tra l'altro. Sì. Nella tua vita, insomma. In generale, insomma. Senti, invece, sì. la fotografia che hai scattato per quel concorso, che tu definisci la più bella della tua vita, che foto era? Ma era una foto... Guarda, io una cosa che dico, insegnando oltre, foto... Insomma. È che una buona foto, secondo me, non è una foto normale di una cosa bella, mm-hmm. Ma è una foto bella di una cosa normale. Okay. Questa era una bicicletta, però, quindi una cosa normale, però era una bella foto per cui soprattutto la luce era bella. Senti, hai fatto pubblicità, il pubblicitario, no? Per una decina d'anni, sì, dici. Ho fatto il copywriter. Il copywriter. Sì. Non l'art director, quindi. Cioè, anche se ti occupi di immagine, lavoravi con le parole. Sì, alla fine sì, mi dicevano che era meglio come scrivevo di come disegnavo, evidentemente. Beh, ottimo. Senti, hai fatto delle pubblicità grosse, delle robe interessanti, ti sei divertito oppure era roba? Sì, mi sono molto divertito, okay. Infatti io agli studenti cerco di spingerli a fare questo lavoro, cioè il lavoro del creativo pubblicitario, perché è veramente un lavoro vario, insomma, lavori su prodotti... ho lavorato sulle calze autoreggenti, ho imparato le denarature, cioè, poi anche sui lubrificanti Castrol per motori, magari che è più congeniale, certo. Però un po' su tutto. Vincenzo, sui reggiseni. Prima di salutarti, come è stato questo rientro a scuola? Sei già stato fisicamente sui banchi, gli allievi? Sì, da ieri. Ieri, com'è andata? Sì, è andata che la scuola ha lavorato tanto, però la situazione insomma è un po' demotivante per tutti, insomma, siamo lì con le mascherine, io soffro di claustrofobia a causa dei 20 anni di camera oscura. E quindi è un problema. E quindi soffro molto, però insomma anche lì bisogna farcela. Senti Vincenzo, io devo salutarti, però sai cosa mi piacerebbe chiederti? Perché non chiedi, visto che lavori con l'immagine, ma alla fine spesso no, la teoria della palla da dietro di cui parlava in Open, nel romanzo sulla sua vita, il tennista Agassi, che diceva che suo padre a un certo punto gli aveva detto, senti tu ti alleni molto bene con la palla davanti, è troppo forte, adesso ti alleno con la palla da dietro. Perché non proviamo ad allenare con la palla da dietro i tuoi allievi e non gli fai raccontare una storia e ce la mandi a linea d'ombra? Vediamo, posso vedere. Insomma, non ti sento convinto. Dipende che storie hanno da raccontare. Digli di pensare una storia che ci abbia nel mezzo un passaggio della loro vita e poi vediamo cosa succede. Ti ringrazio molto, Vincenzo. In bocca al lupo per tutto. A presto. Piacere, grazie. Ciao. Anzi, mille. Se avete voglia di scoprire quali sono i brani che mandiamo in onda tutti i giorni, che Luca Micheli sceglie per noi, per chiudere le nostre storie, andate sul nostro sito, sul sito di Radio 24, cliccate su Linee d'Ombra e ogni giorno un piccolo riassuntino e la playlist, cioè i brani che vi mandiamo in onda. Ora diamo la linea alle borse in diretta e poi torniamo a raccontare qui a Linee d'Ombra. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Linee d'Ombra. In apertura raccontavo di queste piccole storie che viviamo magari anche quotidianamente e non ci rendiamo conto di essere dei passaggi, di essere dei valichi di confine, e solo a distanza magari ce ne accorgiamo, e magari ce ne accorgiamo proprio quando lo raccontiamo, ed è proprio il caso di questa storia qua, perché che parla di una nascita, parla della nascita di un figlio, che è un evento ovviamente meraviglioso, però è anche un evento che sposta gli equilibri delle vite delle persone che ne sono coinvolte, perché dopo la nascita di un figlio niente è più come prima, e chi sta per diventare genitore ovviamente non si deve allarmare. La maggior parte dei genitori, per la maggior parte dei genitori è meglio di prima, quasi sempre. La vita dopo è meglio di quella prima e non vorrebbe mai tornare indietro. Però il cambiamento è enorme e spesso è necessario passare attraverso delle fasi, no? Prima di accettarlo. Ecco, la seconda storia di oggi è una storia di una giovane donna che si chiama Roberta, che ha raccontato lo scorso inverno questa storia in una serata di quelle che tiene Mauro Pescio a Roma, che si chiama Mio Cugino, e parte proprio dalle difficoltà di quel periodo lì per una giovane coppia che ha già anche un altro figlio piccolo. Seguiteci lungo le Linee d'Ombra. Questa storia risale all'agosto di 2 anni fa. Eravamo io, mio marito e i due nostri bambini. Uno di 2 anni e mezzo e una bimba invece di 20 giorni. Eravamo in una situazione emotiva pesantissima, in crisi come coppia, e stavamo cominciando a parlare di separazione. Con una bambina di 20 giorni era una cosa davvero molto molto complicata. Ci trovavamo in una casa al mare dai nonni e una sera Daniele, mio marito, decide di farci una sorpresa. Ci dice: dai, vestitevi bene tutti quanti e andiamo fuori a cena stasera. Vi porto ad Ansedonia in un ristorante di pesce buonissimo. Insomma, gioca le sue carte. Io non lavoravo da mesi ed eravamo a corto di denaro. Ma sei sicuro? Gli dico. Lui però ha questo slancio per salvare il salvabile e quindi io non voglio tarparglielo. Così arriviamo al ristorante. Il ristorante dove ci porta ha una struttura particolare, era come un semicerchio, tutto fatto di vetrate. Ed essendo estate, tutti i tavoli erano stati allestiti all'esterno, lungo questo semicerchio, proprio intorno alle vetrate. Dentro c'erano solo la cucina, il buffet degli antipasti, la cassa e il nostro tavolo. Noi infatti avevamo chiesto di stare dentro perché con la bambina appena nata ci sembrava più prudente. Eravamo gli unici all'interno. La nostra visuale era quel semicerchio di tavoli apparecchiati fuori, dove cenavano tutti, e però in una prospettiva ribaltata, tutti i tavoli vedevano noi, dentro, come in un acquario. Insomma, la cena procede secondo l'ordinario esaurimento che chiunque sia andato a cena fuori con dei figli piccoli conosce. Il grande fa subito cadere il parmigiano, si alza, non vuole stare seduto, la piccola deve essere allattata, allora alzati la camicetta di seta bianca per farla mangiare, poi ti vomita addosso sulla camicetta di seta bianca, ormai quindi ti viene da piangere, poi alzati che devi fare il ruttino, e poi si vuole alzare anche il grande, poi c'è la musica e il grande vuole che balli con lui, e poi mamma balla anche tu con il papà, e allora ci mettiamo tutti a ballare, io e mio marito, ma nel frattempo la piccola, che si era appena addormentata, si sveglia e si mette a piangere. Tutto questo avviene come su un palcoscenico dove ci siamo solo noi quattro. Saw Barbara Ann, so I thought I'd take a chance with Barbara Ann. Barbara Ann, Barbara Ann, Barbara Ann, Barbara Ann, Barbara Ann, Barbara Ann, Barbara Ann, Barbara Ann. You got me rocking and a rolling, rocking and a reeling, Barbara Ann. A dire il vero, all'interno non siamo da soli, c'è anche un'altra persona. È la proprietaria del ristorante, sta alla cassa. Una giovane donna dallo sguardo molto dolce. E poi c'è anche la madre, è al buffet degli antipasti di pesce. È molto severa lei invece nello sguardo. Insomma, la serata è abbastanza un delirio. Entrambi siamo consapevoli che sarebbe stato più facile starcene a casa coi suoceri, però non lo vogliamo ammettere reciprocamente. Quando il supplizio sta ormai per volgere al termine, si avvicina alla cassiera e ci dice così: Scusate, credo che qualcuno vi voglia offrire la cena, o vi abbia offerto la cena. Comunque, insomma, aspettiamo prima. L'ha detto in una maniera... Io già felicissima, lei subito mi ha fatto riflettere, perché ho iniziato a dire... però aspettiamo, io non accetterei così subito. Subito ho guardato fuori dicendo, vediamo se c'è qualcuno che conosco. E io ho detto, ma è impossibile, cioè non c'è nessuno che conosco qui fuori. Giustamente mio marito ha detto, ma scusa, ma non può essere che ci sia qualcuno che conosco io, ci sei solo tu qua. E sul subito ho pensato, ma se c'è qualcuno che ti conosce, che motivo avrebbe di pagarti la cena? Comunque, alla fine della serata, dopo molteplici teorie su che cosa sia meglio fare, ci avviciniamo alla cassa e la signora, con gli occhi dolci, quasi commossa, ci dice: guardate, lo hanno già fatto, vi hanno già offerto la cena. Là fuori c'era una persona, era un uomo che cenava da solo, e quando è venuto a pagare la sua cena ci ha chiesto se poteva fare anche la vostra. Ha detto solo: vorrei offrire la cena a quella famiglia. La signora è rimasta molto stupita e gli ha detto: mi faccia chiedere. Lui però ha insistito, ha specificato che sarebbe andato via subito, che non voleva farsi ringraziare, non voleva niente in cambio, non voleva farsi riconoscere. Ha detto alla cassiera di essere canadese, di averlo già fatto in passato. Ha detto che era tutta la sera che ci osservava e si era commosso nel vederci. E mi viene proprio col cuore, perché tutta la sera che osservo quella famiglia mi sono commosso, e nel dirlo la ragazza ha iniziato a piangere, la proprietaria. Io ho preso a lei, quindi piangevamo, lui dice, questo signore ha detto proprio, io guardandoli mi sono commosso e ho proprio ricordato quanto è difficile, quanto è faticoso crescere una famiglia, perché io ho cresciuto un figlio da solo. Ha detto questa cosa, la ragazza piangeva. E io, sentendo la storia, mi sono messa a piangere come una fontana e ci siamo ritrovate tutte e due a piangere e a consolarci per la reciproca commozione. Per noi era già simbolica la serata di per sé, perché era un momento carico, ma quello è stato un gesto che ci ha restituito un po' di fiducia nella nostra relazione, nelle nostre forze e anche un po' nel genere umano. It's not time to make a change, just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down, if you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot, why think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain, when I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. qui Luca Micheli ci ha dato giù pesante con Cat Stevens e Father and Son, anche se in realtà la storia è raccontata da Roberta, da una madre. L'avete sentita? Avete sentito la sua voce che era leggermente disturbata perché probabilmente c'erano problemi al microfono quella serata a mio cugino, che era appunto una serata che Mauro tiene a Roma quando è possibile tenere ovviamente delle serate dal vivo. Ora è un po' più complesso farlo, ma insomma conta Mauro, conta di ricominciare, quindi se per caso siete curiosi di sentire quei racconti potete andare a sentirle. Vi ricordo che se invece avete voglia di riascoltare la puntata, se avete voglia di riascoltare alcune delle puntate, delle storie che mandiamo in onda, potete farlo serenamente recuperando i nostri podcast sul nostro sito Linee d'Ombra, sulla nostra pagina, perdonatemi, di Linee d'Ombra sul sito di Radio 24, oppure su qualunque sia il mezzo da cui scaricate il vostro podcast. Noi continuiamo a raccontare la storia seriale che sempre il nostro Mauro Pescio recupera, raccoglie e racconta quotidianamente per noi. È la storia di Antonio Cocco, vi dicevo in apertura, la storia di un giovane uomo che parte, intraprende un viaggio che intraprende quasi per caso, in realtà, quasi per errore. Siamo negli anni 50, prende un brutto voto a scuola e decide di partire. Scappa con un suo amico da Venezia, dove lui ha una famiglia molto ampia, molto numerosa, sono 10 fratelli. Raggiunge la Francia, dove però, ahimè, è un clandestino, è il 52, non ha documenti. E in Francia giocano un po' sporco, gli dicono potete tornare in Italia e se tornate in Italia fate 3 mesi di carcere, altrimenti vi arruolate nella legione straniera. Lui ha 18 anni, il suo amico anche di meno, ne ha 16, 17, non sanno nemmeno che cosa sia quel luogo. E appena entrano nella legione lo capiscono, da Marsiglia finiscono a Sidi Bel Abbès, si trovano in Africa e quello che accade in quegli anni in quel corpo dell'esercito francese è umiliante, è un addestramento terribile. E quindi Antonio fa una cosa, comincia a chiedere immediatamente, scrivendo queste lettere ai suoi genitori, lettere grazie alle quali abbiamo quella pubblicazione con cui vi stiamo raccontando questa storia, comincia a chiedere di essere aiutato. E a un certo punto sembra che tutto stia andando per il verso giusto. In questo episodio ci racconta proprio come la conoscenza del console italiano ad Algeri possa aiutarlo nella fuga e come e in che modo, tramite un amico di famiglia, scopriamo quante sono le movimentazioni che il padre ha messo in campo, grazie al suo lavoro, grazie alle sue conoscenze, per far tornare a casa suo figlio. Caro papà, ora la faccenda si è di molto facilitata con la tua conoscenza del console. Il padre viene aiutato, devo dire, ha trovato grandi aiuti. Praticamente ha trovato 4-5 reti che l'hanno aiutato. 2 messe a disposizione, diciamo così, dal credito italiano, la banca in cui sì. Lavorava. Una linea del credito italiano lo portava, come dire, ad avere rapporti al Ministero degli Esteri, ai vari consolati, compreso il consolato ad Algeri, eccetera. La seconda rete, sempre del credito italiano, portava invece a Parigi, anche all'ambasciata di Francia a Parigi. Poi c'è stato, a Venezia ci sono gli armeni, l'isola degli armeni, attraverso l'abate generale che lui conosceva, arrivò a Parigi al gabinetto della Presidenza del Consiglio della Repubblica attraverso un cugino di questo abate generale. Poi c'era stata la rete della Democrazia Cristiana. Attraverso la Democrazia Cristiana era arrivato al segretario nazionale di allora, che era Guido Bonella. E poi c'era un'ultima rete, tutta, come dire, cattolica, attraverso Vladimiro Dorigo, che era il futuro marito di una delle figlie di Cocco, che era il direttore del Popolo del Veneto, che era il settimanale della Democrazia Cristiana veneta, e aveva mosso anche i suoi amici, il presidente della Gioventù Cattolica Francese, eccetera, eccetera, per cercare di... Però tutto ciò non portò assolutamente a nulla. Papà, non so cosa tu abbia in mente di fare. Certo che noi due, sino ad Algeri, ci possiamo arrivare. Cosa non difficile se siamo vestiti bene e portiamo il casco all'africana per nascondere i capelli rapati. Sempre attenendomi all'idea supposta prima, tu potresti fare questo. Metterti in contatto col console affinché mi procuri un qualsiasi mezzo per arrivare in Italia da Algeri. Sino a là non preoccuparti che ci possiamo arrivare. Naturalmente c'è tempo, perché prima di 2 mesi o al minimo più di 1 mese non possiamo andarcene. E la cosa naturalmente deve essere sicura e la data scelta con attenzione prima. Per Paolo niente da fare per ora. Prima cosa, lui è solo ed è troppo fifone, è senza testa e sono sicuro che rovinerebbe tutto. Quando avrò messo piede in Italia, in poco tempo lui potrà essere rimpatriato perché non aveva compiuto i 18 anni al momento dell'ingaggiamento. Non pensare che sia egoismo, ma se voi richiedete Paolo, loro sanno che siamo molto amici e mi tagliano le gambe con la loro sottilissima vigilanza. Ritornando a noi, questa è la nostra situazione e spero che quei fori siano stati interpretati bene. Scrivimi pure liberamente tutto quello che vuoi, ma per non destare sospetti, visto che mi arrivano troppe lettere da Venezia e 2 anche dalla mamma di Paolo, scrivi al legionario Liviero Vasco. Questo Liviero è un ragazzo molto a posto, 23enne e con la testa sulle spalle. L'ha persa una sola volta, quando si iscrisse alla legione per una ragione futile, dicono qua. Aveva messo una ragazza incinta. Nella legione era considerata probabilmente, non credo che Antonio la considerasse lui tanto una cosa futile, tant'è vero che dice, dicono qua, una ragione futile. Sì. Ma comunque, quando si leggono le sue lettere, bisogna pensare anche che, come dire, sono quasi 70 anni fa, lui parlava di selvaggi che noi non ci sogneremo mai di dirlo. Ci sono sempre motivi particolari per i giovani che si arruolano nella legione. Tutti sono uomini in fuga. C'è chi fugge per politica e negli anni 50 sono i fascisti e i nazisti con un passato da nascondere. C'è chi fugge per una delusione d'amore, una fuga sentimentale, chi fugge da una maternità non voluta e chi fugge dalla fame. Chi fugge dalla giustizia perché ha commesso qualcosa e non vuole scontare la pena e chi fugge, come Tony, da se stesso e dalle proprie inquietudini. Alla legione non si fanno domande e non si pretendono confessioni. Non c'è perdono né assoluzione. Basta una firma su un foglio e quello che è stato prima si lascia alle spalle. All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord. All on that day, but the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I ain't gonna hide you down. All on that day, I said, Rock, what's the matter with you, Rock? Don't you see I need you, Rock? Lord, Lord, Lord, all on that day. So I ran to the river. It was bleeding, I ran to the sea. It was bleeding, I ran to the sea. E ora chiudiamo questa puntata di Linee d'Ombra con un piccolo nuovo modo che abbiamo inserito per raccontare, per chiedervi di mandarci delle storie, perché ci siamo accorti che scrivere è un modo per ricordare, per rimettere a posto il passato, quello che è successo anni fa, motivo per cui vi chiediamo di continuare a mandare le vostre storie di Linee d'Ombra a lineedombra@radio24.it. Però è anche vero che raccontare a voce è un modo per provare a vedere un pochettino meglio quello che stiamo vivendo, anche se ci siamo in mezzo, se ci siamo immersi, se non è ancora passato quel pezzo, quel periodo della nostra vita. E quindi da quest'anno abbiamo istituito un numero WhatsApp che è il 331 57 55 721 per mandarci dei messaggi audio, vocali, che ci raccontino qual è la linea d'ombra in cui vi trovate adesso, quella che state vivendo, quella in cui siete immersi fino a qua, fino alla gola. E quindi può essere una storia d'amore passata o che sta iniziando, un passaggio di confine tra un paese e un altro, un passaggio di stato o di forma, quello che volete, oppure proprio come ci racconta la protagonista dalla sua viva voce al 331 57 55 721, come ci racconta lei che cosa accade quando vuoi chiudere un mestiere e ne stai per cominciare un altro. Anche noi psicologi e psicoterapeuti abbiamo delle linee d'ombra. Abbiamo delle linee d'ombra. E devo dire che questo 2020, almeno a me, ha messo seriamente in discussione. Il 5 marzo improvvisamente la mia vita professionale è drasticamente cambiata, perché con, diciamo così, la chiusura delle scuole, la mia attività professionale si è repentinamente interrotta. Dal 6 marzo 2020 il mio stato mentale, da stacanovista convinta, si è trasformato in quello di, diciamo così, una vagabonda, in una condizione di disorientamento. E mi sono ritrovata a pensare se in realtà fosse veramente questa la mia vocazione. A questo punto mi sono chiesta come avrei potuto assecondare a quasi 38 anni di vita questo cambiamento, affrontare un secondo percorso di studi per poter poi accedere all'insegnamento all'interno della scuola secondaria di secondo grado. Questa linea d'ombra purtroppo mina la serenità delle mie giornate. A questo punto io, dopo 17 anni di onorata e rispettabile, spero, carriera, mi ritrovo come un adolescente, anzi, come un giovane adulto, il giorno dopo la maturità. Allo stesso tempo, prima di essere una professionista, sono Annalisa, sono un essere umano. E in questo momento avrei proprio bisogno di essere presa per mano e di essere guidata, perché questa linea d'ombra offusca il paesaggio che mi trovo di fronte. Ecco, ha fatto esattamente così la nostra ascoltatrice. Ha preso il suo telefono, ha aperto WhatsApp, ha digitato il 331 57 55 721 e ci ha mandato questa storia. E quindi vi ricordo, se volete scrivere di una linea d'ombra che avete vissuto, l'indirizzo è sempre quello, è quello che ormai abbiamo da una stagione e passa a questa parte, lineedombra@radio24.it. Se invece volete raccontarci il momento che state vivendo, 331 57 55 721 con un audio, un bel vocale, noi lo prendiamo e ci costruiamo delle puntate. Grazie ad Anita Panizza, a Luca Micheli, a Paolo Corleoni e a Mauro Pescio. Ora lasciamo la linea al GR e noi torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!